Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza, con Federico Pedrocchi e Chiara Albicocco. E gli animali entrarono a coppie. Nell'arca di Noè. Femmina. Ecco, partiremo iniziamo da così? Questo. Sì. Ciao Federico, buonasera a tutti. Ciao Chiara, benvenuti e benvenute a Mebius. Allora partiamo da una pericolosa arca di Noè, così lo intitoleremo. Poi? E poi parleremo dei sardi e in particolare di una ricerca che si occupa di loro, perché sono davvero speciali dal punto di vista genetico. E infine, avete mai visto un lamantino con il ciucciotto, con il biberon? Di questo vi parleremo brevemente. Partiamo. Beh, certo, non ci abbiamo pensato, ma Noè era un accumulatore, no? Era un accumulatore come? Di tutte le specie dell'universo, praticamente. Il più grande di tutti. Facciamo riferimento a una pericolosa arca di Noè, che è appunto il libro di cui stiamo per parlare. Il sottotitolo è L'accumulo di animali tra cronaca e ricerca. Qualche tempo fa, Mebius, forse qualche anno fa addirittura, agli ascoltatori abbiamo già raccontato di queste patologie. Ora queste ricerche sono diventate un libro, una pericolosa arca di Noè, che è edito da Edizioni Cosmopolis, e qui con noi c'è una delle tre autrici, Elisa Colombo. Buonasera. Buonasera. Benvenuta. Lei è psicologa dell'Università qui Statale di Milano e insieme a Paola D'Amico, che è una collega giornalista del Corriere, ed Emanuela Prato Previde, invece, che è la docente di psicologia della facoltà, avete scritto questo libro sugli accumulatori di animali. Forse è il caso di partire da qui. Chi sono? La definizione di accumulatore è abbastanza recente, nel senso che fino a poco tempo fa non si parlava di accumulatori, ma si parlava di persone afflitte dalla sindrome dei fratelli Collier, piuttosto che da sindrome dell'uccello giardiniere. E avevamo una serie di definizioni abbastanza creative di questa condizione. Che però volevano dire un po' la stessa cosa. Che volevano dire la stessa cosa. Inizialmente questo termine è stato utilizzato per indicare persone che tendevano ad accumulare, quindi a riempire le proprie abitazioni, soprattutto di oggetti. E poi ci si è accorti che c'era una variante, ovvero una grossa frequenza di persone che accumulavano animali di qualsiasi specie, in particolar modo cani e gatti. Diciamo che la frequenza maggiore si ha rispetto ai cani e gatti, perché sono gli animali più facili da trovare, però gli accumulatori possono accumulare di tutto, quindi anche rettili, anche animali esotici. Ad esempio a Milano c'è stato un caso abbastanza famoso di un accumulatore di pappagalli. Dei pappagalli esotici, sì, è vero, esatto. È vero. Ecco, ma c'è una bella differenza tra chi accumula oggetti in casa, spazzatura, insomma, quello che è, e chi invece un animale, insomma, un essere vivente. Sì, è assolutamente diverso dal punto di vista della relazione e delle dinamiche psicologiche. Tuttavia, all'interno del manuale dei disturbi mentali a cui fanno riferimento psicologi e psichiatri, questi disturbi sono accomunati in un'unica categoria diagnostica, che è quella dell'hoarding disorder o disturbo d'accumulo, di cui l'accumulo di animali rappresenta una variante. In realtà è una definizione che lascia un po' perplessi, perché non possiamo paragonare l'accumulare oggetti con l'accumulare esseri viventi e senzienti. E infatti uno degli aspetti più critici dell'accumulo di animali è la patologia della relazione che si crea con l'animale, per cui queste persone diventano incapaci di riconoscerne la sofferenza e le necessità di base, per cui spesso abbiamo animali tenuti in condizioni veramente estreme, c'è una compromissione dello stato di salute. Esatto, cioè ci sono dei casi in cui la situazione è critica, dal punto di vista totale, cioè sia per gli animali anche che per gli umani, però poi ci sono dei casi estremi, ci sono un po', come diciamo, delle tipologie, mi pare che voi ne individuate circa 4, insomma. Sì, allora innanzitutto bisogna fare una grossa differenza tra quello che è accumulo come patologia e quello che è accumulo non è, nel senso che ci sono delle persone che amano avere tanti animali e che riescono ad accudirli perché ne hanno la capacità economica, piuttosto che hanno proprio le competenze per farlo, mentre invece ci sono persone che accumulano animali in maniera patologica, ed è questo questo è il tema del libro, ovvero quelle persone che a causa di un disturbo di tipo psicologico cercano di riempire le proprie case. A volte questo disturbo però riguarda anche aspetti esterni all'abitazione, per cui troviamo l'accumulo anche in canili e gattili a volte, e al di sotto c'è una patologia. Quando c'è una patologia, il tratto distintivo è che gli animali non vengono accuditi nella maniera appropriata. Diciamo che l'igiene e la cura dell'animale è quello che fa la differenza. Esatto, è quello che fa la differenza, perché manca completamente l'igiene personale e dei luoghi in cui vengono tenuti gli animali, e manca del tutto la cura dell'animale. All'interno di questa condizione patologica poi differenziamo diversi sottotipi, per cui abbiamo una categoria che viene definita quella del caregiver sopraffatto, dove abbiamo queste persone che sono mosse da un interesse, un amore per gli animali, però non sanno darsi un limite, per cui continuano a raccogliere ad esempio randagi piuttosto che ad adottare animali da associazioni e da canili, ma poi non hanno le risorse psicofisiche ed economiche per riuscire ad accudirli in maniera adeguata. Senta, a che numeri si arriva? Di animali? Sì. C'è stato un caso negli Stati Uniti fino a 445 casi. Praticamente invasa. Sì, ma in un appartamento delle nostre città ci sono casi di, non so, di gatti, fino a che numeri si arriva? I casi più che hanno coinvolto più animali sono stati uno a Milano, in una villetta, credo su due piani, comunque non enorme, in cui sono stati trovati 100 gatti. Ma... Senta, nel preparare l'intervista lei ci ha detto una cosa un po', insomma, strana, cioè una roba con i frigoriferi, se si arriva anche a che cosa? Sì, purtroppo un dato che si riscontra negli accumulatori è quello di non riuscire a separarsi dagli animali nemmeno una volta che questi animali sono morti, per cui vengono conservati anche i corpi degli animali, spesso vengono conservati nei frigoriferi piuttosto che si ritrovano animali imbalsamati. Infatti passiamo un po' a questo punto, che cosa si deve fare qualora si avvertisse appunto l'esigenza di avvertire qualcuno di casi di questo tipo? A chi ci si rivolge? Alla ASL, ai carabinieri, oppure non so, alla protezione animali? Allora, al momento diciamo che è abbastanza equivalente rivolgersi a un organismo piuttosto che all'altro. Quelli che sono coinvolti in maniera principale sono la ASL, in particolare il servizio veterinario e il servizio legato agli inconvenienti igienici. Anche il servizio forestale dello Stato può essere allertato. Quello che si sta cercando di fare a Milano è di organizzare un servizio integrato. È molto più facile farlo quando si tratta di accumulo di oggetti, mentre invece per l'accumulo di animali la situazione è un po' più critica, perché devono essere coinvolti più organismi. Quindi e certo, perché diciamo gli esseri viventi da curare sono due. Esatto. Tutti gli animali accumulati e quindi tutti gli enti preposti, e poi c'è un percorso, immagino, psichiatrico e psicologico per aiutare insomma la persona invece. Sì, dovrebbe esserci, nel senso che se noi guardiamo la letteratura internazionale vediamo che quello che viene consigliato è un supporto psicologico, psichiatrico e soprattutto psicoterapeutico, perché solo così possono reintegrarsi nella società e superare il loro problema. Quello che a cui si è assistito fino a poco tempo fa nella realtà italiana è un approccio del tipo via gli animali, via il problema, e questo è un problema che si sta cercando di affrontare, ma non è semplice trovare le risorse per aiutare queste persone, perché sebbene sia un disturbo trasversale a tutto i possibili status socio-economici degli individui, in realtà si riscontra molto anche in persone che hanno delle difficoltà economiche e che quindi non possono permettersi un percorso di supporto psicologico, psichiatrico, privato, a pagamento. Va bene, grazie Elisa Colombo, ricordiamo il titolo del libro, Una pericolosa arca di Noè. Grazie mille, buon lavoro. Grazie, arrivederci. Buon lavoro, arrivederci. Möbius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. Nature Genetics è una rivista di ricerca molto importante. molto prestigiosa, che ha pubblicato, pensa Federico, 3 ricerche italiane sullo stesso tema, che è la genetica dei sardi, cioè della popolazione che vive in Sardegna. E qui con noi stasera per raccontarcela c'è Francesco Cucca. Intanto buonasera e benvenuto. Buonasera. Benvenuto a Mebis. Lei è coordinatore, insomma, di questi studi piuttosto approfonditi ed è anche direttore dell'Istituto di Ricerca Genetica e Biomedica del CNR, che appunto ha coordinato tutto questo studio, questo team numeroso. Noi ne abbiamo già parlato a Mebius, la Sardegna è peculiare dal punto di vista genetico e voi siete andati a ricercare un pochino quelli che sono le caratteristiche proprio straordinarie, diciamo diverse dall'ordinario, inteso in questo senso, della popolazione sarda. In particolare avete analizzato addirittura 6.600 volontari, quindi un lavoro di ricerca davvero importante. Diciamo, è stato un lavoro impegnativo. Sicuramente, oltre al numero di individui analizzati, c'è stato un lavoro molto, diciamo, impegnativo di caratterizzazione della variabilità genetica, cioè di quelle differenze che esistono nel DNA all'interno della nostra specie, che ha consentito di analizzare diversi punti del DNA, oltre 17 milioni, che appunto sono diversi in differenti persone, e di cercare di correlare queste differenze con caratteristiche misurabili e importanti da un punto di vista biomedico, come i livelli dell'emoglobina, i livelli dei lipidi, le molecole dell'infiammazione nel sangue e l'altezza. Ecco, lei ha detto l'altezza. Partiamo da questo, che è una caratteristica fisica che magari viene attribuita appunto ai sardi, il fatto di non essere troppo alti, diciamo, come così, come detto. Voi avreste in qualche modo individuato la parte genetica che influenza proprio l'altezza, la crescita. In effetti il nostro studio si inserisce nell'ambito di altri studi già effettuati in altre popolazioni, che erano stati effettuati in casistiche molto ampie, insomma, attraverso studi collaborativi tra diversi gruppi, andando ad analizzare di migliaia di individui, che collettivamente questi studi avevano già evidenziato 700 varianti genetiche, cioè punti in cui le sequenze delle persone sono diverse e in grado di influenzare la statura. Il nostro studio, diciamo, ha degli elementi di novità ovviamente rispetto agli studi precedenti, e sono legati al fatto sostanzialmente che abbiamo identificato in particolare un particolare punto del genoma, che è localizzato a livello di un gene che presiede, insomma, la sintesi dell'ormone del recettore dell'ormone della crescita, che quando è alterato, cioè la variante genetica che noi abbiamo trovato in duplice copia, causa una forma di nanismo, è una malattia causata da un difetto da un singolo gene. Abbiamo trovato che la singola variante presente su un singolo cromosoma, o di origine paterna o di origine materna, influenza la statura. Questo non era noto, perché si tratta di una sindrome rarissima, questa che causa questa forma di nanismo, che porta l'individuo a essere alti 1,25 m, quindi è una forma molto importante di ritardo della crescita. Noi abbiamo visto che la singola variante è straordinariamente frequente relativamente al fatto che stiamo parlando di malattie presenti in uno su milioni di individui nel mondo. Era presente in questa regione dell'Ogliastra, circa i 2% dei volontari erano portatori ed erano 4 centimetri più bassi. Quindi la novità è che quindi il confine tra quelle cosiddette malattie monogeniche causate da difetti a un singolo gene, nel nostro caso una forma di nanismo, e i cosiddetti tratti multifattoriali, che sono causati da centinaia di geni con il concorso dell'ambiente, questo confine è abbastanza labile, perché la stessa variante è implicata sia in una forma di difetto monogenico, che questa forma di nanismo, che nella statura a livello di popolazione generale. Cioè, mi scusi, per vedere se abbiamo capito bene, c'è un segnale, un messaggio genetico che crea una condizione che noi possiamo considerare, insomma, grave, patologica, per cui abbiamo individui alti 1,20 m. Ci sono delle varianti su questo tema invece che non creano quella condizione grave, ma che comunque però influenzano un po' con l'altezza, è così? Sì, è la stessa variante che quando è presente in duplice coppia, come capita per malattie come la talassemia, la fibrosi cistica, che sono per avere una certa condizione deve aver ricevuto la forma difettosa del gene sia da parte della madre che dalla madre. E in questo caso c'è la complicazione. Il nanismo. Quando invece uno ha una singola coppia, non si sapeva neanche che i portatori, tra virgolette, sani di questo difetto avessero una statura ridotta, si discuteva, perché ce ne sono così pochi nel mondo, sono i genitori dei malati. Era difficile fare correlazioni. Invece noi, avendo la possibilità di vedere centinaia di individui e di compararli con individui della stessa popolazione che non hanno quella variante, abbiamo visto che è un effetto importante, insomma, anche chiaro. 4 centimetri rispetto a 3 millimetri, che è la media degli effetti sulla statura dei geni precedentemente descritti da altri. Oltre all'altezza avete analizzato ovviamente altre variabili, come ad esempio i lipidi nel sangue, l'emoglobina e così via, ma perché i sardi, comunque la popolazione sarda, si presta così bene ad essere appunto analizzata dal punto di vista genetico? Per il fatto che vive su un'isola, perché ha una variabilità genetica molto alta? Anche una sua storia, magari, da dove sono venuti. Sì, l'insieme di questi fattori, certamente vivere in un'isola non è sufficiente. È l'antica storia demografica della popolazione sarda, che è stata inizialmente occupata, insomma, nell'ultima parte del Paleolitico, poi iniziata a espandersi nel Neolitico. Quindi stiamo parlando di una popolazione che ha una storia di 10.000 anni in un contesto insulare, e per una serie di meccanismi legati alla fondazione iniziale contiene in sé una importantissima quota delle differenze genetiche che sono presenti in Europa in generale. Diciamo che probabilmente la singola popolazione più informativa per rappresentare la variabilità genetica nell'insieme dell'Europa, e in più ci sono tutta una serie di forme genetiche, quindi di differenze nei geni, che chiamiamo appunto varianti, che sono molto rare fuori dalla Sardegna e sono comuni in Sardegna, e quindi consentono di fare correlazioni con variabili biomediche misurabili, come l'altezza, come i livelli dell'emoglobina, come le cellule del sistema immune, così. Quindi, sì, cioè è una popolazione sufficientemente ampia e diversificata perché sia significativa dal punto di vista della ricerca, però allo stesso tempo è dentro una cornice che rende più facile la ricerca, insomma. Esatto, è questo il punto. Così. Senta, volevo chiedere una cosa però, visto che lei accennava anche a tutta la storia, la provenienza. Mi sembra che nella tradizione sarda antica, quando si parla di nuraghe, no? Si parla invece di luoghi, edifici che erano occupati da giganti, no? da popolazioni piuttosto alte. Può essere che all'origine magari le differenze, appunto, la popolazione iniziale fosse assolutamente mischiata, cioè con tante altezze, tante diversità, e poi mano a mano nel tempo avviene una selezione in una direzione sola? Ma guardi, uno degli aspetti interessanti del lavoro appunto sulla statura era che quello che vediamo è che esiste un arricchimento sistematico tra le 700 varianti che influenzano l'altezza di quelle che favoriscono la bassa statura in Sardegna. Un arricchimento che non può essere legato al caso, questo lo vediamo con certi test specifici, e quindi in qualche modo suggeriscono la presenza di un vantaggio selettivo per la bassa statura, certo. Che in un contesto insulare è interessante perché si inserisce nella tematica, insomma, del fatto che i grandi mammiferi tendono a essere di dimensioni ridotte nell'isola, dato il tempo, ovviamente è necessario stare in un'isola per un periodo sufficientemente lungo. E questa è una delle caratteristiche che, per esempio, la popolazione sarda, ma altre popolazioni che vivono nelle isole non hanno. Si pensa all'Islanda, è l'opposto. Esatto. È più recente come popolazione. Ma sulla sua domanda è difficile, al di là delle rappresentazioni e attraverso appunto statue come sì, anche miti, certo. Monteframe, il miti, insomma, quanto questo poi Forse è vero. Sicuramente una delle caratteristiche dei sardi è di essere i più vicini tra le popolazioni che ci sono attualmente in Europa agli antichi agricoltori neolitici, cioè se si prendono dei resti fossili, dei resti di DNA da ossa di agricoltori neolitici in Europa e si compara il DNA di questi agricoltori neolitici vissuti 7.000, 6.000, sì. 5.000 anni fa con il DNA dei contemporanei, sardi sono i più simili. Dei studi suggeriscono che gli agricoltori neolitici fossero relativamente più bassi se comparati con la popolazione precedente. Certo. Quindi il tema è di capire se una popolazione che magari era comunque relativamente bassa alla fondazione o comunque in un certo periodo preistorico, se queste caratteristiche si siano in qualche modo incentivate attraverso appunto una storia insulare e attraverso centinaia di generazioni. Questo non è facile, è un'ipotesi aperta. Va bene, davvero grazie Cucca, buon lavoro e insomma la ricerca continua, mi pare di capire. Attendiamo altre notizie sui sardi. Speriamo presto, grazie. Arrivederci, buona serata. Arrivederci. Qualche anno fa abbiamo parlato anche del lamantino, appunto, sì, che è questo animale, questo mammifero acquatico di cui abbiamo già parlato. Io mi ero divertita ad andare in giro per i bar di Milano a chiedere che cosa fosse appunto questo lamantino e sentiamo cosa mi hanno risposto. Allora, lamantino è praticamente la guccia, cioè la gruccia. Non lo so, la cosa che si mangia? Lamantino? La gruccia, dove metti gli abiti? La stampella, credo. Deve essere una cosa importante, tipo, vabbè, si beve. Si beve. Tipico, è un ballo. È un ballo. In effetti potrebbe. È estinto il lamantino. Certo che so cos'è il lamantino. È un animale. Oh. Ah, questo le sa, eh? Il lamantino sta... Nuota il lamantino. Sì. È un tessuto. Come il cashmere. Il lamantino? L'animale. Nel bosco. Io conosco solo Lamantino Mancini della, dell'ex giocatore della Roma. Ecco, le hanno dette di tutte. L'ex giocatore della Roma, un tessuto. Qualcuno ha detto un animale che nuota e ci siamo avvicinati. Vabbè, perché ne parliamo, Federico? Perché un paio di settimane fa siamo state all'acquario di Genova. Eccolo lì. Ed è nato, dove è nato, il cucciolo di Lamantino. Sono animali bellissimi, tenerissimi. Noi ce ne siamo innamorati e abbiamo fatto un video che abbiamo pubblicato sul nostro blog, che trovate su www.radio24.it, sul blog di Mebius, e adesso vi facciamo sentire un breve estratto dell'intervista che abbiamo realizzato lì con la direttrice scientifica Claudia Gili. Diciamo che in questo momento ancora noi stiamo operando dal punto di vista nutrizionale al 100%, perché lui ancora non si è attaccato. No, si avvicina, tranquillo, a volte va nella posizione, loro hanno questo allattamento ascellare che è come gli elefanti, no? Sono parenti degli elefanti questi qua, quindi hanno proprio questo tipo di nutrizione del cucciolo, che è in zona ascellare, sembra quasi che l'abbracci, ok? Lui si avvicina, si posiziona, lei si gira nella posizione giusta, presenta la zona del capezzolo, ha il latte all'interno della mammella, si vede che ogni tanto lei si sfina e esce il latte, però lui non è ancora effettivo. E il papà chi è? Allora, ancora non lo sappiamo perché in vasca ci sono due maschi e in pratica si è sempre accoppiata con entrambi, quindi quando sono in calore praticamente passa tutto il tempo, tutta la giornata ad accoppiarsi, mangiare e accoppiarsi, cioè anche mentre mangia, nel senso è proprio un'attività continua. Ecco, forse l'accumulatore di lamantini lo farei, è troppo bello. Ma non esiste, è troppo difficile. Se no pochissimi, sono in via di estinzione. Sì, purtroppo. Va bene, grazie a tutti per l'attenzione, ci sentiamo tra 7 giorni. Buona settimana a tutti e a tutte.